ciao a tutti ragazzi, io sono Jacopo e sono stato uno dei partecipanti al viaggio ad Auschwitz del progetto Terreno per la Memoria. E oggi volevo proporvi un pezzo tratto dalla mostra di restituzione che abbiamo fatto uno di questi ultimi giorni di scuola. È una lettera che mi sono immaginato che un capo ha scritto alla madre, e in cui le dice che ha iniziato a dubitare di tutto il male che sta facendo, che fa e che farà. Mamma, oggi ho dubitato. È stata la prima volta. È stato strano. C'era un bambino, avrà avuto 8-9 anni al massimo. Mi chiedo cosa avrà voluto fare da grande. Magari sarebbe stato un genio o un grande comandante del nostro Reich. Ma era ebreo. Spiacente, bimbo. Tu vai nella camera a gas. Chissà se si immaginava di fare una fine così, anche se non penso, a giudicare dalla valigia che si era portato. È incredibile come la sua esistenza sia stata così breve e che non abbia lasciato neanche una traccia. In effetti non l'abbiamo neanche registrato al suo arrivo. Dritto a morire, grazie per essere venuto. Addio. Mi chiedo se sia giusto tutto ciò. È una colpa che la casualità genetica lo abbia fatto nascere ebreo? Ah, dannazione, ecco che sto ancora dubitando. Io odio pensare. Era così facile, le prime volte che ci davano le anfetamine. Tu di qua, tu di là. Tu muori, tu no. O perlomeno, non subito. Alla fine, si trattava solo di indicare la direzione da seguire. Semplice, senza implicazioni morali. E chi se ne frega di quello che c'è dopo? Io ti ho solo detto dove devi andare. Ma oggi, io oggi ho cominciato a dubitare. Davvero tutte queste persone meritano di fare questa fine? E se tutta questa gente lo merita, non lo merita forse anche il mio vicino di casa Hans, che fa pisciare il suo maledettissimo cane sui miei gerani? Quanto mi piacerebbe vederlo qui un giorno, e io non vedo l'ora di dirglielo. Tu vai a destra. Ma lui è ariano. Un ariano antipatico. Mi chiedo quante persone valesse la pena conoscere, di quelle a cui ho detto tu vai a destra. Sicuramente tutte meglio di Hans. Però questo Hitler non lo ha considerato. Chissà cosa succederà dopo, quando li avremo ammazzati tutti. Io spero non siano tutti come Hans, il mio vicino di casa. Una nazione piena di gente supponente e antipatica. Sto rabbrividendo. Però io, mio Dio, io ho ancora quella bruttissima sensazione. Io sto dubitando ancora. Io odio pensare. Io odio pensare al domani. Io vorrei più anfetamine. Io voglio più anfetamine. Io voglio rifugiarmi nel dolce abbraccio della sicurezza che mi dà l'eseguire ordini senza pensare. Un abbraccio, Clemens.